Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 18. Nel nome del senza nome. Drago era da solo nella stanza della segnatura. Aveva trovato la palla da tennis di Mirko e stava giocando una singolare partita di squash con la scuola di Atene. Aristotele aveva la mano protesa verso di lui, pronta per afferrare la palla. Platone, lì accanto, alzava un dito per tenere il punteggio, o forse per chiedere se poteva giocare anche lui. Drago lanciava la palla verso la mano di Aristotele e, dosando la forza in modo da farla ricadere sul pavimento, la faceva poi rimbalzare nelle sue mani senza quasi muoverle. Aveva iniziato a scaldarsi quando un timido bussare alla porta lo distrasse. Ignorando la palla che stava descrivendo un arco sopra di lui, corse ad aprire. «Bene, finalmente, mettetela lì sotto il parnasone!» Tre uomini entrarono sorreggendo un grosso involucro rettangolare. Drago aveva scoperto che il Vaticano, nonostante i secoli sulle spalle, aveva un'ottima rete locale cablata e una perfetta copertura wireless. Si era fatto portare una TV di ultima generazione con cui poteva sia collegarsi in rete che vedere i canali satellitari mondiali. Era il momento di controllare se la succhia cervelli aveva iniziato a fare il suo dovere. Le prime disposizioni che aveva dato erano vaghe, ma allo stesso tempo categoriche. Le trasmissioni dovevano essere istruttive. Non era tanto importante l'argomento quanto l'effetto che dovevano avere sul pubblico. Sarebbe stato compito di Mirko studiare i palinsesti nei dettagli e renderli il più efficaci possibile. Iniziò istintivamente da Rai 1. Non fu sorpreso di trovare la replica di un programma di Piero Angela. Rai 2 trasmetteva un programma sui fossili con il figlio di Piero Angela. Anche questo non lo stupì più di tanto. Premette il pulsante avanti canale. Rai 3 trasmetteva un documentario sulle tempeste magnetiche e le aurore boreali. Su Mediaset le cose non cambiavano di molto. Addentrandosi sempre più nella selva di emittenti grandi e piccole, si trovavano programmi ancora più particolari. Documentari sulle meduse e sui loro rapporti con le alghe simbionti, filmati di esperimenti scientifici, persone in camice bianco davanti a tavoli colmi di provette e microscopi elettronici, monitor con grafici colorati che ondeggiavano sullo schermo. Sullo sfondo la buona vecchia lavagna nera in formato gigante gremita di formule scarabocchiate col gesso. Sparsi per i vari canali c'erano anche filmati amatoriali. Un tale stava mostrando come costruire un piccolo motore elettrico usando una batteria, un piccolo magnete e del filo di ferro. «Ci voleva il devil per farvi trasmettere queste cose, vero? Cazzoni!» disse Drago. Una televisione araba stava trasmettendo immagini di antichi manufatti che assomigliavano a componenti meccaniche di un orologio. Non c'era più traccia di televendite, telegiornali, telefilm, non c'era pubblicità. Una TV di Hong Kong illustrava in perfetto inglese le ricerche che venivano fatte nei loro modernissimi laboratori. Drago era estasiato. Con un bombardamento cognitivo così intenso e capillare, presto sarebbero nati nuovi Newton, nuovi Einstein. Si sarebbe visto di che cosa erano capaci gli umani. Spense lo schermo e, raccogliendo la palla da tennis, annotò mentalmente di ordinare ai responsabili di trasmettere anche programmi dedicati all'arte, musica, pittura, arti figurative, specialmente quelle del periodo classico e rinascimentale. E naturalmente un sacco di rock, di quello vero. Lanciò la palla sul povero Aristotele, pensando che gli sarebbe anche piaciuto condurre con Mirko un programma su MTV, qualcosa tipo musica da Dio. Toc! Il rimbalzo secco della palla aveva un bel suono. L'acustica della stanza della segnatura rifletteva in ogni dove echi e riverberi. Sì, lo avrebbero sicuramente fatto. Afferrò la palla e la rilanciò con più forza. Stock! Aristotele si rivelava un ottimo battitore oltre che ricevitore. Afferrò il rimbalzo della palla con una giravolta. Si chiese che situazione avesse trovato Mirko tornato in città e perché Platone continuasse a tenere quel dito in alto. Era ora di preparare la prossima scena e chiamare il suo socio. Lanciò la palla sul pavimento fino a farla sfiorare con un rimbalzo la volta affrescata. La riacchiappò al volo e, continuando a palleggiarla, uscì dalla stanza. Il basso sole del mattino illuminava per metà la piazza del centro della città. Decollando dai cornicioni, i piccioni si avventuravano con brevi svolazzi a esplorare il selciato in cerca della colazione o planavano sulla fontana al centro della piazza per bere e schizzarsi con i suoi zampilli. Diossido è un tizio con capelli a caschetto anni 60, occhiali tondi scuri alla John Lennon e bavero della giacca rialzato che spingeva una carrozzina con un giovane cerebro leso sbavante, fecero il loro ingresso nel lato sud della piazza. Avevano passato ore a discutere il da farsi. Non potevano né abbandonare il pescatore né tantomeno portarselo dietro come uno zombie. Dopo estenuanti discussioni, Mirko per scherzo aveva buttato lì un «lasciamolo in chiesa». E Diossido, entusiasta e sfinito, aveva approvato. Avevano deciso di lasciarlo nella chiesa dove entrambi, per gentile concessione del parroco, avevano passato pomeriggi suonando l'organo a canne. Sicuramente lì qualcuno si sarebbe preso cura di un miracolato del senza nome. La piazza a quell'ora era semivuota. Solo alcuni clienti al bar che non potevano rinunciare al cornetto e cappuccino mattutini. Pochi pensionati che si erano radunati per commentare le solite cose che interessano solo i pensionati, un paio di persone che portavano a spasso il cane e se stesse, un paio di suore e alcuni ragazzi che stavano montando una tenda bianca accanto alla fontana. Lo strano terzetto era quasi arrivato a metà piazza quando l'altoparlante del radiolone accanto alla tenda già montata a metà iniziò a diffondere le note del secondo movimento della nona sinfonia di Beethoven. Mirko si girò automaticamente verso la sorgente della musica e vide distintamente Acqua di Cane vestito con una tunica bianca che sistemava il radiolone su un tavolino per meglio diffondere il suono. Si fermò di scatto facendo beccheggiare pericolosamente il pescatore sulla carrozzina. Acqua di Cane stava parlando con una suora vestita di bianco e il capo coperto dal velo. Il viso incorniciato dal vestito monacale aveva un che di familiare. Dai movimenti rapidi e sinuosi sembrava giovane. Un'altra suora, più robusta e anziana, parlava con altri tre ragazzi che tenevano in mano striscioni arrotolati con scritte che Mirko non riusciva a decifrare. Diossido, che era arrivato qualche metro più avanti, si era fermato a sua volta e aveva visto cosa aveva distratto Mirko. Con una mano gli fece cenno di aspettare e si diresse verso la tenda. Riviera si sedette ad un tavolino del bar semivuoto, sistemando la carrozzina con il pescatore davanti a lui per osservare furtivamente la scena. I tre ragazzi stavano srotolando lo striscione cercando un punto sul selciato per infilarci le aste per sorreggerlo. Acqua di Cane dava indicazioni al gruppetto senza accorgersi dell'arrivo di Diossido. Le due suore parlottavano fra loro mentre aprivano un tavolo portatile e lo sistemavano dentro la tenda. Posero due sedie ai lati opposti del tavolino ed uscirono proprio mentre Camillo arrivava lì. Mirko vide la suora più giovane che all'improvviso si lanciò verso Diossido e lo imprigionò in uno stretto abbraccio. Quando lo lasciò andare, iniziarono a parlare fittamente. Intanto lo striscione era stato srotolato e, anche se ancora non fissato saldamente a terra, vi si poteva leggere scritto in grandi lettere blu «Nel nome del senza nome». Mirko si sentì conficcare una spada nel torace. Ebbe l'impressione di guardare dei pesci in un acquario, come in quel film dei Monty Python. All'improvviso gli fu tutto chiaro. Era un centro di reclutamento dedicato al nuovo dio. Non gli interessava conoscerne i dettagli, anzi, ne aveva quasi paura, ma era sicuro che fosse proprio quello che stava avvenendo. La sedia sotto di lui iniziò a farsi bollente. Gli sguardi dei passanti sembravano infilarsi sotto i suoi occhiali e la parrucca. Stava per avere un attacco di panico. Si alzò in fretta, inciampando nella gamba del tavolino, agguantò la carrozzina con il pescatore e si incamminò verso la via che portava alla chiesa, badando a tenere lo sguardo e la testa bassi. Appena fu fuori dalla visuale dei pesci, riuscì a respirare meglio e insieme al senso di sollievo percepì la rabbia montargli dentro. Era ora di chiamare il suo socio e fare quattro chiacchiere. L'aria aveva la consistenza di un budino. Il calore e l'umidità la rendevano densa. Gli insetti che gli entravano nel naso non contribuivano certo alla sua respirazione. Drago Ocelot stava goffamente discendendo lungo la parete, aggrappandosi alle voluminose radici che formavano una ragnatela lignea sui blocchi di pietra sconnessi. Avrebbe potuto prendere la strada sterrata poco più in là, ma aveva proprio bisogno di muoversi per il puro piacere di farlo. In lontananza il tintinnio di campanelline al vento si mischiava con i versi esotici degli uccelli. Non si udiva nessun suono di attività umana. Si costrinse a non pensare a serpenti, ragni o scorpioni. Risistemò lo zainetto sulle spalle e con il piede destro tastò l'aria sotto di sé, mentre il sudore gli colava sugli occhi facendoglieli bruciare. La punta della scarpa trovò una fessura su cui potersi appoggiare. Spostando lentamente il peso, Drago scese quell'improvvisato scalino. Calcolò che gli mancavano circa un paio di metri e almeno una decina di insetti ronzanti in bocca prima di toccare il terreno. Il peso del calore del sole sulla testa gli fece affrettare i movimenti. Non vedeva l'ora di sedersi all'ombra. Cercò un appiglio, ma la radice era ormai arrivata alla fine ed era troppo fragile per sostenere il suo peso. Mentre si voltava cercando un nuovo punto di appoggio, un suono familiare, anche se alieno in quel luogo, interruppe i suoi movimenti. Ebbe qualche secondo di confusione, poi con un sorriso si rammentò che aveva acceso il cellulare appena Locker era atterrato. Con una leggera contorsione del braccio, la sua mano raggiunse il telefono nello zainetto e senza bisogno di leggere il display rispose alla chiamata. «Socio, mi chiami sempre al momento sbagliato», disse in tono scherzoso. «Invece è proprio il momento giusto. Dove cazzo sei?» Drago si guardò intorno ridendo. «Dove sono? Beh, diciamo che era da parecchio tempo che volevo fare una gitarella qui. Ti avrei chiamato appena trovato una posizione migliore. In questo momento mi servirebbe davvero una mano. O una scala», disse guardando in basso. «Io sono ancora in città. Mandami Locker che ti raggiungo». «Certo», rispose Drago ridendo. «Certo che te lo mando, dammi 5 minuti e te lo mando al volo». Guardò le rovine intorno a sé. «Ho proprio bisogno di una mano per rimettere a posto questo casino». Mirko stava per urlargli nel microfono che non aveva un'idea di che cos'era il vero casino, che aveva ridefinito il concetto stesso di casino, che quando tutto è diventato casino è come se il casino vero non esistesse più. Ma non voleva iniziare una discussione litigando al telefono e si trattenne. «Ok, allora, presto!» e chiuse la comunicazione. Diossido lo raggiunse proprio in quel momento. «C'è qualcosa che dovresti sapere», gli disse. «Sì, lo so, ho già visto tutto, merda. Si sentiva proprio la mancanza di un nuovo culto di matti. Almeno Acqua di Cane non mi ha visto». «Hai visto la suora?» «Quale? Sì, ce n'erano due. E allora?» Diossido rivolse lo sguardo al cielo e sbuffò con nervosismo. «Anna», disse. «Anna? Anna che cosa?» Poi Mirko si ricordò dell'abbraccio con rincorsa ricevuto da Camillo e capì. «La rossa! Era lei?» Diossido annuì silenzioso. Si incamminarono verso la chiesa. «Merda! Stavo cominciando a sperare che almeno lei si fosse salvata. Era la più tosta!» Mirko fece una pausa. «Io devo andare.» Un'altra pausa. «Da lui. Vuoi venire?» «Non mi sembra una buona idea. Non ho voglia di vederlo, quello là. Ho paura di cosa potrei fargli.» Mirko scosse la testa, ma non disse niente. Guardò la nuca del pescatore che ciondolava come quella di un animaletto di pezza sul lunotto posteriore di una macchina. Era responsabile in prima persona di quello che era successo ai suoi amici. Il senso di colpa accumulato in quei giorni alimentava l'ira verso se stesso e verso Drago. Affrettarono il passo e finalmente giunsero davanti al vecchio grande portone di legno intarsiato della chiesa. Sebbene fosse mattina, dai battenti accostati si intravedeva all'interno il chiarore delle candele e l'aria azzurrina di luce che penetrava dai mosaici delle finestre. Dava un'impressione di serena accoglienza. «Se ne prenderanno cura», disse Mirko. «In qualche modo», disse Diossido. «Io vado.» «Va bene.» «Mi faccio vivo presto.» «Va bene.» Mirko diede una pacca sulle spalle del pescatore e lo fermò mentre cadeva in avanti. Poi diede un cazzotto sulla spalla di Diossido e si avviò verso la macchina.